Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. If you were waiting for the opportune moment, that was it. Veramente un gran bel disco, questa è la Lanterne Magique del gruppo veneto francese di nome Green Moon. Ve lo ricorderete qualche anno fa, i tempi di Demolition, vero? Ora sono cresciuti veramente tantissimo, incidono per la loro Macaco Records e noi ci siamo ascoltati questo brano dal titolo Mocha, che ha aperto la quarta parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. Quarta parte che prosegue con Songs for Christmas, il cofanetto di Sufjan Stevens, uscito proprio in concomitanza del Natale, a raggruppare tutta una serie di dischi che lui prima aveva pubblicato così in amicizia per i 4 anni precedenti, quindi ci sono 5 dischi raccolti, compreso quello per il 2006 dedicato alla pace, Songs for Christmas, dal quale di solito ci ascoltavamo Sister Winter. Invece quest'oggi in Eclettica faccio una scelta diversa, Get Behind Me Santa. So fast, like a psychopathic color. Christmas time, ain't no clowning around. And if you think you've got something to prove, boy, Santa Claus is coming to town. To the plate and the fire. to choose your blood versus your blues. Right towards the dawn, quicksilver on the side of nothing. Sono sicuro che molti fra voi abbiano riconosciuto la voce del canadese di Vancouver di nome Daniel Behar, in questo caso titolare del progetto Destroyer, e passato però da queste parti di recente anche sotto il nome di Swan Lake, un altro progetto a cui ha partecipato. Però non c'è niente di nuovo dei Destroyer in circolazione. Questo disco era già possibile ottenerlo come importazione da parecchi mesi, essendo uscito nella prima metà del 2006, Destroyer Rubies, però è appena stato pubblicato in Europa grazie alla spagnola Aquarela Records, con l'aggiunta, così titolano le press release, di 23 minuti di extra track. Ho ascoltato questi 23 minuti, pallosissimi, non ne vale assolutamente la pena. Chi già aveva il disco del Destroyer non spenda soldi per questi 23 minuti ulteriori. Noi comunque abbiamo usato questa scusa per ascoltarci Your Blood, direi che è stata una buona, buonissima scusa. Fra pochissimi giorni invece nei negozi di dischi dovreste riuscire a trovare No Promises, il nuovo disco di Carla Bruni, a distanza di 4 anni ma soprattutto di 2 milioni di copie vendute del suo disco d'esordio. In questo caso si fa ispirare anche da un bel po' di poesie di William Butler Yeats, di Dorothy Parker, Emily Dickinson, Christina Rossetti, e non vi ho citato tutti i poeti. Noi ci ascoltiamo Those Dancing Days Are Gone. Let me sing into your ear. Those dancing days are gone. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body up in as foul a rag. I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. As you may, I sing it true. What matter if naive, that the most could pleasure you? The children that he gave, some were sleeping like a top. The moon, the flag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Let me sing into your ear. I thought it out this very day, noon upon the clock. All that silk and satin gear, a man may put pretense away who leans upon a stick. Sing and sing until he drop. Whether to maid or hag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. The moon in a silver bag.

put my arm around you and I'll walk you outside. Through the sliding doors, why would I mind? Something in the deli aisle makes you cry. Of course I put my arm around you and I'll walk you outside. Through the sliding doors, why would I mind? You're not a baby, you feel the world. All of the babies, they can feel the world. Paper Television è l'album dei The Blow, duo che incide per la tedesca Tom Lab, pur essendo statunitense, Parenthesis è il brano che ci siamo ascoltati. E siamo così arrivati anche alla chiusura della prima settimana di Eclettica del 2007. Sono contento di poterlo fare con una bella anteprima, un'anteprima di un disco che uscirà per primo negli Stati Uniti, poi nel resto del mondo. La prima data di pubblicazione è il 6 di marzo 2007 ed è il nuovo disco a nome Aqualung. Lo ricordate, l'artista inglese Matt Hales, che quando uscì usando lo pseudonimo Aqualung disse: ma non sapevo che fosse un album di Jethro Tull, mai sentiti Jethro Tull. Comunque, che sia vero o meno questo, noi ci stiamo per ascoltare, sui saluti da parte di Giulio Capperdoni, un'anticipazione appunto di quell'album che si intitolerà Memory Man. Pressure Suite chiude Eclettica di questa settimana. Alla prossima! Where you really are. Gone. I'll be